Buonasera, benvenute tutte le signore e signori. Questa è un'iniziativa appunto della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che si trova attualmente in maniera provvisoria in questa piccola sede e che nel giro di qualche anno potrà confluire nel polo bibliotecario. Abbiamo riflettuto tanto su questa biblioteca perché poi ci siamo convinti che anche questo è un bene comune e quindi siamo sempre molto contenti di poter fare delle iniziative per coinvolgere le persone, per far conoscere anche in questo piccolo posto quello che viene fatto a favore del cittadino, con i soldi del cittadino, e che serve per tantissime cose. La biblioteca non è un posto dove si arriva in silenzio, si guarda un libro e si chiede se forse si può prendere il prestito. La biblioteca è un luogo dove chiunque vi può accedere senza doversi per forza dichiarare nome, cognome, eccetera, e soprattutto può liberamente usufruire dei servizi che vengono erogati e quasi tutti sono sempre gratuiti. E ci teniamo a fare questo discorso perché, mai come oggi, è importante la biblioteca, è importante che ci siano delle persone che propongano alla biblioteca delle occasioni, degli spunti di riflessione, che consegnino i loro studi, le loro opinioni e che permettano alle persone, ad altre persone, di entrare in contatto con i pensieri o con le ricerche e le informazioni. E che ci siano anche delle occasioni di incontro fra le persone. Questa biblioteca è da anni che persegue questo tipo di fine, di scopo, organizzando due volte alla settimana degli incontri, ci organizziamo e mettiamo a contatto con persone che si occupano dalla storia della Chiesa alla storia locale. Questa sera sarà la volta dell'economia oppure la memorialistica, ci sono racconti di esperienze personali durante la guerra, insomma cerchiamo di dare e di offrire il più possibile degli spunti di riflessione, delle occasioni di incontro, nella convinzione che oggi la biblioteca deve arrivare a una svolta e deve soprattutto essere sempre più possibile un luogo di incontro per le persone. E di solito lasciamo anche così delle brochure, un modulo di iscrizione che, ripeto, è semplicemente per poi attivare delle password per accedere anche da casa alle nostre banche dati, alle nostre riviste online e ad altri servizi multimediali per cui è necessario avere dei dati personali, oppure semplicemente per mandarvi degli inviti. E chiediamo anche alle persone invitare anche dei loro amici, dei loro conoscenti a conoscere quello che è una biblioteca e frequentarla di più, perché in questo momento anche di crisi, di informazione, un percorso personale, un contatto con altre persone è di fondamentale importanza. Siamo convinti che una struttura come la biblioteca possa essere un piccolo contributo nella crescita di un benefit sociale che ci manca in questo momento. Ecco, io ringrazio chiaramente le persone che vengono ogni settimana e anche le nuove persone che si iscrivono alla biblioteca, ma soprattutto ringrazio anche coloro che rendono possibile questi incontri. Questa sera è con noi appunto Claudio Ferrari, che propone il suo libro Economia e Democrazia, Pensieri Lenti. Lo accompagna, ecco, lo accompagna la signora Manuela Dalmeri e darà voce ad alcuni passi Olivero Ferrari, che è un collega della Biblioteca Civica di Merano e che ringrazio, ecco, per la sua disponibilità. Grazie a voi e buona serata, con tanti saluti anche dall'assessore Tomasini, che è il presidente di questa biblioteca. Grazie. Grazie. Scusate una cosa, ce l'ho in mano qua. La biblioteca partecipa al Festival delle Resistenze, che si terrà in aprile in Piazza Matteotti, ma avrà un circuito anche che si muove su tutta la provincia. E questa biblioteca farà un salottino insieme ad altre biblioteche del territorio, sempre con questo principio del bene comune che dobbiamo far conoscere alle persone, dobbiamo far diventare protagonisti, gli utenti nelle biblioteche. Il 29 e il 30 aprile saremo presenti in Piazza Matteotti con il nostro piccolo salotto, quindi usciremo da questa struttura e andremo incontro ai cittadini. Se avrete piacere di venirci a trovare, ci berremo il tè delle 4 insieme, cioè, insomma la prenda alle 3 alle 4, comunque saremo lì. Ecco, grazie. Grazie. Credo che non funzioni il microfono. È che tu? No. Deve funzionare perché il video non è acceso sotto. Non è acceso forse lo schermo. Penso che sì. Ma volevano fare una registrazione. Siamo in podcast. Siamo in podcast. Sento il parolazzo. Va. Questo? Pronto? Si sente, si sente? Prova. Proviamo a parlare forte. Pronto, pronto, pronto. Aspetta, non lo so. Mi chiede che la... E allora faremo con la fede. Si parlerà un po' con c'è un altro. Sì. Va bene, forse andiamo con la regia. Siamo ecologici. Allora tocca a me introdurre la serata. Innanzitutto ringrazio i presenti e ringrazio i nostri cortesi ospiti della biblioteca. Tra l'altro la nostra deliziosa bibliotecaria ha già introdotto alcune delle tematiche, magari non volendolo, che concernono le riflessioni dell'autore Claudio Ferrari, autore di Economia e Democrazia, Pensieri Lenti. Ora, Claudio Ferrari, che forse alcuni di voi conoscono, è militante, diciamo, da molto molto tempo nel campo dell'economia etica, della finanza etica, in particolare come cantastorie di Banca Etica, membro del comitato etico della Banca, Banca Popolare Etica, e come presenza, diciamo, che ha intercettato movimenti ambientalisti dell'economia sociale, dell'economia civile, del turismo responsabile. Apparentemente tematiche, come dire, diverse l'una dall'altra, ma in realtà profondamente interagenti, e lo vedremo nel corso della serata. Io sono Manuela Dalmeri e rappresento Publisampa Edizioni, che ha pubblicato questo volume, perché ci relazioniamo molto volentieri al mondo etico come impresa, come azienda, perché crediamo fortemente nel discorso della responsabilità etica e sociale di impresa, un nuovo modo di fare economia, ovvero un modo di fare economia che rispecchia profondamente il nostro, mio e del signor Casagrande che è qua alla mia destra, modo di lavorare, che si basa sulla qualità indubbiamente, ma soprattutto sulla qualità dei processi, dei prodotti rispettosi dell'ambiente, così come lo è questo libro che è stampato su carta certificata FSC, riciclata, in un'azienda dove si rispettano i diritti dei lavoratori e dove nonostante la crisi non si è mai licenziato nessuno, piuttosto abbiamo assunto giovani. Occupandoci di formazione, siamo certificati ISO 14001 per il nostro sistema di gestione ambientale e siamo certificati SA 8000, responsabilità etica e sociale d'impresa, oltre a FSC, alla catena di custodia per la gestione delle foreste e quindi la cellulosa che provenga da foreste amministrate responsabilmente, con un termine un po' fumoso che significa evitare le distruzioni delle, con il taglio a raso delle foreste primarie del pianeta e portare attenzione ai diritti dei popoli indigeni sulle cui terre ci sono le foreste più importanti, perlomeno in Europa. Stiamo parlando delle foreste della Lapponia, ad esempio, finniche e poi anche siberiane per quello che riguarda le conifere. Quindi un'attenzione che abbiamo sviluppato di nostro, ma parallelamente a questo mondo che ha preso sempre più piede anche con la crisi. Questo libro, Economia e Democrazia, Pensieri Lenti, e poi Claudio ci dirà perché lenti, Lo dice, come dire, subito questa breve spiegazione che vi vado a fare, ma poi lo approfondirà lui. Sono il sedimento di anni di militanza, di partecipazione. Mi viene da guardare dritto in faccia l'ospite, se mi permettete, più preziosa della serata, almeno per me, che è Lidia Menapace, e che anche lei, come dire, e che ringrazio per la sua presenza, che anche lei ha attraversato anni di impegno politico, sociale, e ancora adesso l'abbiamo incontrata sul treno provenendo da Milano, noi eravamo a fare la cosa giusta, lei proveniva da un evento che riguardava le donne. E, dicevo, questo libro sedimenta, ovvero niente, traccia delle riflessioni legate a anni di partecipazione militante, oltre il lavoro extraprofessionale, diciamo, in quest'idea di cambiamento, in quest'idea di fare qualcosa con i nostri comportamenti individuali e quelli collettivi. Parla di economia, parla di finanza, ma non in modo pedante, ve l'assicuro. È una relazione, un riferire una storia privata che è anche una storia collettiva. Ecco, collettiva perché riguarda un mondo, un movimento importantissimo che è nato nel 1999 ufficialmente con Banca Popolare Etica, di cui si è parlato tanto adesso. E questo libro, con la crisi, e questo libro incredibilmente, rileggendolo, consultandolo in questi giorni per riprendere un po' in mano le fila della tematica, l'ho trovato attualissimo, assolutamente attuale, perché queste vicende dei nostri tempi, che non sono, non hanno un punto, sono continuamente percorse da virgole, ci riportano in primo piano le tematiche dell'economia e soprattutto della politica, con la cittadinanza che torna finalmente ad uscire dall'indifferenza gramscianamente pericolosa, vista con grande pericolo, per se vogliamo anche in modo confuso, se vogliamo in modo problematico, ma pur tuttavia con un atteggiamento che rifiuta la tecnocrazia, che rifiuta il governo degli ottimi, tra virgolette, che pretende di esprimere una voce. E allora Claudio, dillo subito tu, perché pensieri lenti? Si preoccupava la Lidia, devo star qua quanti giorni? No, non saranno lenti come l'elaborazione che ho fatto di questi pensieri. Li ho chiamati pensieri lenti per due motivi principali. Uno, come dice Manuela, che è stata un'elaborazione che è durata una decina d'anni, non che io ci metta 10 anni a scrivere un libro. Questo libro è la raccolta degli appunti che mi sono fatto svolgendo il lavoro di cantastorie per Banca Etica. Quindi ho letto, ho studiato, ho partecipato e mi sono preso degli appunti per poter a mia volta spiegare la banca, o comunque meglio ancora la finanza etica, a tutti, a quelli che me lo chiedevano, all'associazione, alle parrocchie, agli enti e quant'altro, e anche ai singoli. Naturalmente io ho avuto anche il piacere di far socio di Banca Etica Libia a suo tempo, e non solo. Per cui questo lavoro che ho fatto in questi anni, prendendomi questi appunti, ha dato vita a una serie di capitoli di un libro che non ritenevo un libro, perché effettivamente li ritenevo anche abbastanza staccati uno dall'altro, però poi facendolo leggere a chi era interessato, alcuni di questi articoli li ho fatti girare nel mondo della finanza etica, della banca etica, mi hanno detto che tutto sommato, e poi me l'ha confermato Manuela e i suoi collaboratori di Pubblistampa, poteva stare insieme, perché era un ragionamento che filava, nel senso che passava da un argomento a un argomento affine o comunque anche cointeressato all'argomento precedente, insomma con un poche piccole cambiamenti, ritocchi. Ne è uscito un libro che però non è un libro pedante, come appunto ho detto Manuela, perché non parla solamente di economia. La prima parte sì, ovviamente, perché erano i miei appunti che mi servivano per andare a raccontare, ma poi sono passato quasi senza accorgermene ad altre tematiche, quindi la democrazia, la decrescita, i bisogni, c'è un po' di tutto. Devo dire che forse sono tre i motivi per cui ho chiamato i pensieri lenti. Un altro di questi motivi è Alexander Langer. Io sono un langeriano convinto e sono convinto che Alexander fosse un pioniere, fosse un precursore, che abbia detto tanti anni fa cose che adesso regolarmente si verificano e anche con impatti ancora maggiori di quelli che si potevano pensare. E quindi la lentezza, il suo Lentius Profundus Suavius mi ha un po' ispirato. E il terzo motivo, diciamo, perché pensieri lenti, lo vedete dalla copertina, è un trekking in Marocco che ho fatto. Mi piace il muovermi lentamente, a piedi, in bicicletta. E devo dire che molte di queste idee mi sono venute in questi momenti di solitudine, facendo queste cose, oppure anche in compagnia, ma poi dopo nel camminare non sempre si colloquia. Il camminare, nel prossimo libro ci sarà anche un capitolo sul camminare, ci si confronta, ci si scambia, ma ci hanno molti anche momenti in cui si può ragionare da soli, si possono fare delle... E poi quest'altra così situazione si verifica in bicicletta con ancora maggiori risultati, se vogliamo, perché ho constatato che c'è anche un momento di liberazione fisica con la stanchezza, lui va in bicicletta, lo sa. Dopo un certo periodo, dopo un po' di tempo che si va in bicicletta, ci si svuota di tutto, la mente anche si svuota e si prepara a ricevere nuovi input, nuove idee. Per cui la fatica fisica a volte libera la mente anche da... però appunto lentamente e senza forzare a volte, no? Per cui la lentezza pervade un po' questo libro. Ci sono anche appunto c'è anche un capitolo che parla di bici e felicità, no? Nel senso che economia, bici e felicità. Direi che possiamo fare una lettura intanto, poi... Sì, direi che la prima lettura, non con i miei soldi, riprende una campagna di Banca Popolare Etica che è ancora in corso e che spiega per quali ragioni dovremmo opporci al silenzio che pervade il nostro rapporto con le banche, all'omertà che spesso le banche pretendono sugli investimenti dei risparmi, dei risparmiatori ignari. La parola a Oliviero. Non con i miei soldi. Abbiamo assistito in questi ultimi anni a un cambiamento simile a quello che nel Medioevo, grazie alla tecnica e alle nuove opportunità economiche, consentì alla borghesia mercantile di soppiantare le gerarchie feudali. Qualcosa del genere si è verificato ora con l'esplosione della tecnica informatica. Un numero limitato di persone ha avuto la possibilità di detenere un grande potere, cosa non nuova in assoluto se si pensa alle oligarchie che le hanno da sempre esercitato, occupando anche nei regimi democratici la stanza dei bottoni. La differenza è che oggi i nuovi potentati economici travalicano i confini nazionali e la ricchezza che spostano, essendo basata su entità non produttive ma speculative, è di gran lunga superiore ai bilanci delle singole nazioni. Si è formato un nuovo gruppo sociale e lobbistico globale che riesce da un lato a ispirare una cultura del successo, specie nei giovani, e dall'altra a condizionare dall'alto la politica economica dei singoli paesi, scavalcando le scelte tramite l'influenza diretta sulle istituzioni internazionali. L'altro effetto deleterio dell'imporsi di questa classe globale è la lacerazione delle tradizionali reti di solidarietà sociale, interne ed esterne alla realtà nazionale, determinando così nuove disuguaglianze sulle quali, come si è visto, i governi poco possono, vista la contemporanea necessità di ridurre le spese per il welfare imposta dagli stessi meccanismi dell'economia sviluppista. È da tempo iniziata la ricerca di soluzioni che riportino la persona al centro delle decisioni economiche e politiche, tramite la sperimentazione di nuove formule di democrazia partecipata, il ritorno alla dimensione locale nella gestione della cosa pubblica, le prove di economia alternativa con il commercio e la moneta locale. Si tratta di iniziative coraggiose e talvolta vincenti a livelli territoriali, ma ancora molto deboli, poco comunicate e scarsamente collegate tra loro per poter fare sistema. Quale potrebbe essere il comune denominatore che collega tutte queste iniziative, le mette in rete e le fa diventare economia reale, da contrapporre per sostituire a medio e lungo termine la finanza speculativa? Visto che il denaro è e sarà ancora per molto tempo il motore quasi unico delle attività umane, è qui che vanno concentrate la nostra attenzione e i nostri sforzi. Dobbiamo sottrarre il controllo delle fonti monetarie a chi le usa male, a chi finanzia imprese dannose per l'uomo e per l'ambiente, a chi non rispetta i diritti dei lavoratori, delle donne, dei minori, a chi riduce la possibilità del genere umano di sopravvivere su questo pianeta. Dobbiamo riappropriarci dell'uso delle risorse finanziarie per poterle controllare e per indirizzarle verso attività che migliorino le condizioni umane, adesso e in futuro, facendo nostri i concetti di sostenibilità e di solidarietà verso gli altri e verso le future generazioni. In questo senso, l'opzione non con i miei soldi che ci offre la finanza etica con i suoi strumenti operativi può soddisfare il bisogno di giustizia sociale ed economica che ormai molti cittadini hanno identificato come prioritario per il raggiungimento del bene comune. La sfida ora è di farne cultura condivisa. Allora, è innegabile che la crisi è stata fortemente condizionata dalla speculazione finanziaria e che la speculazione finanziaria, ovvero la finanziarizzazione dell'economia come viene definita, ha creato dei pericoli di nuovo autoritarismo per quanto riguarda gli assetti politici degli stati. Non dico che ne siamo fuori, ma c'è molta più consapevolezza, si sta diffondendo una maggiore attenzione, anche perché in Italia e in tutta Europa, col drenaggio delle risorse pubbliche per sostenere le banche, si è fortemente minato il welfare, come Olli ha appena letto. Allora rivolgo una domanda a Claudio e gli chiedo questo: economia verso democrazia, cioè, è vero o non è vero che c'è stata e è in corso ancora una minaccia autoritaria? È vero o non è vero che possiamo, attraverso gli strumenti della finanza etica in particolare, ma anche tutti i settori che coinvolgono il mondo della finanza etica, che possiamo, come dire, cercare di creare momenti di advocacy, se non altro, o perlomeno di pensiero critico condiviso, che possano evitare ulteriori derive? Sì, allora, la domanda comporterebbe parecchie giornate di dibattito, ma sostanzialmente, come ho detto nel libro, e poi riprendo nel secondo libro che dovrebbe uscire quest'autunno, il problema grosso è la discrepanza tra potere economico e potere politico. L'economia finanziarizzata soprattutto ha prevalso sulla politica perché con strumenti con più determinazione, con più organizzazione, è passata sopra a quelli che sono gli stati nazionali e il loro potere deliberante. Per cui uno stato nazionale non può più decidere di nuotare contro, remare controcorrente, in quanto sopra di lui le lobby, le multinazionali, i grossi potentati decidono altrimenti, o comunque li impediscono con la concorrenza, con il dumping finanziario, con il dumping economico. Dumping sarebbe abbassare i prezzi e quindi scacciare la concorrenza o schiacciare la concorrenza, meglio ancora. Per cui i poteri decisionali della nostra democrazia occidentale, e non solo, sono molto ridotti. Come recuperare? Non è facile, c'è un movimento di carattere internazionale che però è ancora estremamente minoritario, che vorrebbe una rivisitazione di quelle che sono le istituzioni mondiali, ONU in primis con tutte le sue sotto-associazioni, sotto-strutture, che dovrebbe avere la forza, la potenza anche, che dovrebbe venire data ovviamente dalle nazioni, che sono sempre in disaccordo tra loro, di legiferare a livello mondiale. Cioè si parla di una repubblica mondiale, si comincia a parlare di una repubblica mondiale, e quindi di una struttura, ne parlerò più diffusamente, ripeto, nel secondo libro, che abbia tutti gli strumenti della democrazia, quindi quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario, votati dalle persone. È chiaro che potrebbe sembrare un'utopia, ma alla lunga credo che non ci sia un'altra soluzione dal punto di vista politico. Dal punto di vista economico e finanziario forse siamo un po' più avanti, nel senso che la finanza etica si è costruita da una nicchia, si è costruita invece una struttura abbastanza solida, e oggi come oggi le banche etiche sono quasi sempre, anzi sempre più solide delle banche classiche, quindi hanno un numero di soci e di clienti notevole, hanno dei fatturati notevoli, perché alla fine si parla sempre di denaro, quindi bisogna anche parlare di cifre, ma hanno un appeal sulle persone, sulla gente, come dimostrano i fatti, sempre crescente in funzione di quelle che sono le magagne che verifichiamo nella finanza classica, nella finanza normale, nelle banche. Chiaramente non avremmo voluto questo aiuto, avremmo preferito farne a meno, avremmo voluto progredire con le idee e non con le situazioni di crisi che invece si stanno verificando. Ovvio che questo ci aiuta, ovvio che questo fa sì che gente cominci a interessarsi, sempre più gente comincia a interessarsi di un altro modello di uso del denaro, anche le presenze a queste manifestazioni, a queste presentazioni lo dimostrano, ma anche il numero di persone che si sta avvicinando in Italia alla banca etica, ma la finanza etica è un movimento mondiale, ci sono banche etiche in tutte le nazioni del mondo, sia quelle occidentali sia quelle del terzo mondo, insomma del mondo meno sviluppato. Chiaramente sono differenti le funzioni, la funzione di più microcredito o quella funzione di più il credito normale, e una dimostrazione di questo è il fatto che noi come banca etica abbiamo aumentato il credito che forniamo rispetto alle altre banche, che negli ultimi 2 anni lo hanno ridotto. Che dire ancora? Sì, il problema è che le soluzioni vanno prese da due parti, dalla parte, chiamiamola superiore, dalla parte istituzionale, come dicevo prima, creando delle istituzioni internazionali più forti, e qui ci sarebbe un lungo discorso da fare sulla struttura dell'ONU, sui veti incrociati e su come è stata costituita questa associazione importantissima, che andrebbe sicuramente rivista. Dall'altra, credo che ancora più significativo sarebbe un movimento dal basso, cioè che siano i consumatori, i risparmiatori consapevoli a a cambiare le cose. C'è uno dei miei maestri, che è Leonardo Becchetti, del quale vi invito a leggere qualche libro, che parla di voto col portafoglio. Cioè noi, invece di votare ogni 5 anni un governo che poi forse si farà o non si farà, vedremo, tutto, noi votiamo ogni giorno, andando al supermercato, andando al bar, andando a comprare il giornale, cioè avendo il conto in una banca piuttosto che in un'altra. E questo è il voto che sposta, perché anche le strutture politiche non si muovono se il cittadino non si muove. E quindi forse questo è il segreto, cominciare ad avere un movimento di base, anche perché siamo reduci da una stagione in cui abbiamo iniziato col consumo critico, col commercio consolidale. Al denaro abbiamo pensato per ultimo, invece forse era la prima cosa a cui dovevamo pensare, perché è il motore di tutto. Però va bene, ci stiamo arrivando, molta gente ci sta arrivando, ci sono le file davanti ai nostri sportelli. Adesso è arrivato anche il promotore finanziario di Bolzano, che poi magari vi presenterò. Per cui siamo qua per modificare, come dico nel libro, e togliere i soldi a chi li usa male e affidarli, perché sono nostri, a chi li usa meglio o bene, e controllare soprattutto come li usi. Perché la finanza etica e la banca etica hanno delle strutture innovative rispetto alla finanza classica, che sono strutture di controllo e che sono sia a livello nazionale che a livello locale. A livello locale ci sono gruppi di iniziativa territoriale che valutano i finanziamenti da fare, fanno promozione, fanno attività culturale e compagnia bella. Qui abbiamo anche il dottore sociale per la provincia di Bolzano, oltretutto. E quindi sono una forma di controllo di base. E poi abbiamo a livello centrale un comitato etico che controlla che l'andamento generale della banca sia conforme a quelli che sono i suoi principi fondanti, che sono, poi potete trovare anche tutte queste cose anche sul sito della banca. Direi che... Facciamo un'altra lettura o aspettiamo ancora? Facciamo ancora. Allora, i settori di intervento della finanza etica sono importantissimi, perché effettivamente ci danno la misura di come il mondo finanziario tradizionale, le banche tradizionali, forse tralasciando un po' il mondo del credito cooperativo, se vogliamo, che è sempre stato più vicino alle istanze delle proprie comunità, ma in generale diciamo ostile o perlomeno completamente refrattario a quella che è l'economia sociale. Là dove non ci sono bancabili, tra virgolette, non si eroga credito, dove non ci sono garanzie, dove c'è un'impresa che parte, soprattutto su tematiche ambientali, magari c'è molta molta difficoltà di accesso al credito, ora come ora, con l'aggravante della crisi, hanno stretto ancora di più i cordoni della borsa. Sto parlando delle banche convenzionali, per così dire. Mentre la finanza etica è sempre stata attenta non solo ai soggetti da finanziare, cooperative, ma ha aperto anche ai privati che abbiano necessità particolari legate magari alla green economy, se vogliamo, ma a tutto il contesto generale della solidarietà internazionale, dei servizi socioassistenziali, delle cooperative sociali e via discorrendo. Durante la recente campagna elettorale non abbiamo visto istanze che abbiano a che fare con l'ambiente, non si è parlato di beni storico-artistici, di tutela del nostro patrimonio architettonico, non si è parlato di cultura. È vero, abbiamo l'emergenza del lavoro, ma chi riflette sa bene che il lavoro potrebbe trovare risposta anche e soprattutto in questi contesti: ambiente, patrimonio storico-artistico, turismo responsabile. E in questo io trovo che sempre più attuale è il discorso della finanza etica. Ci vuoi parlare nello specifico dei contesti di intervento? C'è un punto molto interessante qua, perché uno, come dire, quando si parla di finanza etica si pensa più all'aspetto caritatevole, no? Ma non è così, non è così. Ovvero, si vorrebbe, come dire, cauterizzare un po' le ferite che può aprire questo discorso nel mondo dell'economia e della finanza, no? Si vorrebbe tenerlo a bada parlando di charity, di carità. Ma non è così. Il suo potenziale rivoluzionario risiede proprio nel propugnare nuove forme di eco-economia. Eco-economia riferita all'ambiente e riferita alle persone. Ce ne vuoi parlare? Sì, innanzitutto tu hai parlato prima della nostra campagna Non con i miei soldi e da un paio di giorni, quindi è molto fresca, è partita la seconda campagna Con i miei soldi. Cioè, cosa vogliamo fare con i nostri soldi? E ovviamente le due campagne sono parallele perché una riflettono un po' quella che era la divisione iniziale della finanza etica tra criteri di esclusione e criteri di inclusione storica, laddove si decideva, e hanno iniziato delle associazioni così, religiose americane, a cominciare a dire negli anni 20 ancora dove non avrebbero voluto investire i loro soldi, quindi escludendo l'alcol, le armi, la prostituzione, alcuni così basilari, alcuni principi basilari. Dopodiché questi criteri di esclusione sono aumentati col tempo, essendosi sviluppate nuove lotte, quindi magari dico il lavoro minorile o le pari opportunità o contro il nucleare o contro l'uso di animali, diciamo, anche per esperimenti e quant'altro. I criteri di esclusione sono molti e su quelli si basa la campagna Non con i miei soldi, quindi non vogliamo che i nostri soldi vadano a finire in queste cose, che più o meno sono riportate anche nel libro. La campagna Con i miei soldi, viceversa, dice dove voglio che i miei soldi vengano usati, perché poi in effetti noi affidiamo i nostri soldi a qualcuno, non sappiamo quasi mai che cosa ne fanno, anzi. E quindi la campagna Con i miei soldi, noi fin dall'inizio, fino a quando è nata Banca Etica 14 anni fa, l'8 marzo del 99, abbiamo individuato quattro grossi canali di finanziamento, che sono la cooperazione internazionale, poi la cooperazione sociale, quindi le cooperative, i servizi sociosanitari, l'ambiente e la cultura al tempo libero. Quant'altro che voglia un po' la parte più ludica o, se vogliamo, più intellettuale dell'uomo, per poi aprire a una quinta canale di finanziamento, che è quello sul privato, perché molti dei nostri soci ci chiedevano di lavorare con la banca, di usarla come banca del quotidiano. Soci che magari avevano il mutuo o dovevano avere un mutuo per la casa, oppure avevano, e lì abbiamo deciso innanzitutto di aprire conti correnti a tutti, anche qui è un invito veramente a voler cambiare la destinazione dei propri soldi, perché Banca Etica è una banca a tutti gli effetti, fa tutte le operazioni finanziarie. E quindi il privato, per quanto riguarda soprattutto il mutuo casa, la situazione della casa, il fotovoltaico o comunque spese che ineressero alla sua e della sua famiglia il miglioramento socioculturale, quindi spese per studio, spese mediche o quant'altro, non chiaramente per comprarsi il sud. Ecco, per cui queste sono un po' le cinque settori in cui Banca Etica. Questo vale per noi, Banca Etica Italiana, Banca Popolare Etica di Padova. Ci sono anche altre banche etiche a livello internazionale che fanno cose comunque sempre simili, magari parziali. Ci sono delle banche, specialmente nel mondo tedesco, nate soprattutto su spinta di movimenti ambientalisti, e quindi che lavorano soprattutto sull'ambiente, o viceversa banche nel mondo anglosassone che lavorano molto sul sociale, più sul sociale, meno sull'ambiente. Insomma, noi abbiamo cercato di fare banca a 360 gradi, quindi dare servizi al cittadino e finanziare tutto il finanziabile, che sia coerente ai principi, insomma, nostri, e coerente ai principi di esclusione e di inclusione, che sono appunto l'esatto contrario. Quindi la cooperazione, l'associazionismo, anche il profit, perché no? Aziende profit che abbiano un indirizzo appunto coerente con quello che noi vogliamo, cioè un miglioramento della situazione ambientale, della situazione sociale, la produzione del biologico, le energie alternative, la mobilità dolce, tutto quello che possiamo inventarci che vada ad aumentare sia il benessere, ma anche a non influire sull'ambiente, ma anche a proteggere quelli che sono i beni comuni. Per esempio, abbiamo partecipato con forza alla campagna sull'acqua, che non è ancora finita, sappiamo, e a mille altre campagne, ma tanto per dire, anche sostenendo la campagna per la legalità. Per esempio, siamo gli unici finanziatori di Libera fino adesso, per cui nessun'altra banca ha avuto il coraggio di finanziare le cooperative di Libera tranne la nostra. Per cui questi sono sostanzialmente, poi ripeto, si potrebbe parlare a lungo di tutto quello che facciamo, che vorremmo fare, che questo è anche importante, però vorrei accennare un attimo a quello che tu dicevi poco fa riguardo all'advocacy, cioè all'azionariato critico. Sappiamo che esiste un'economia, chiamiamola reale, un'economia classica, un'economia delle industrie, delle banche, delle imprese, della borsa. Non possiamo negare la sua esistenza e non possiamo starne fuori, perché fa parte del quotidiano, fa parte di quello che è la produzione, il prodotto dell'Italia, non il classico prodotto interno lordo, che è un indicatore fasullo. E quindi abbiamo iniziato anche a investire in questo mondo, investire però in modo oculato, cioè avendo l'attenzione a quelle che sono le aziende migliori, le aziende che applicano di più questi criteri, che applicano di più la responsabilità sociale, e che oppure che dimostrano di voler migliorare queste loro performance in questi settori. E facciamo anche il pelo a questa società, nel senso che andiamo nelle assemblee, facciamo delle mozioni, facciamo delle interrogazioni, alcune volte ci rispondono, alcune no, però tendenzialmente siamo un po' così, quelli che danno la reputazione, quelli che possono dare una reputazione migliore alle aziende, alcune se ne fregano, diciamo chiaramente, però noi abbiamo comprato un po' di azioni dell'Enel, solamente poche, ma per poter avere un'assemblea e per poter fare delle domande sul loro impatto ambientale, sugli stipendi dei manager, sulla governance che hanno queste imprese e quant'altro. Qualche volta ci hanno risposto, qualche volta no, abbiamo raccolto un numero di piccoli azionisti per poter arrivare a influire sulle decisioni, e piano piano stiamo arrivando, cioè facciamo anche un lavoro di controllo dell'economia classica che in Italia non fa ancora nessuno, ci risulta. In effetti mi sono portata l'elenco dei punti che Banca Popolare Etica ha sottoposto ai candidati alle elezioni, e c'è tutto questo, cioè il desiderio di una maggior regolamentazione per quello che riguarda il mondo finanziario classico, convenzionale, e l'azionariato popolare, un'attenzione all'azionariato popolare. Per quanto riguarda la richiesta di regole, perché poi è questo che si chiede che vengano applicate delle regole, ad esempio il miglioramento della Tobin Tax per quello che riguarda le transazioni finanziarie. Si chiede di contrastare la fuga dei capitali nei paradisi fiscali, si chiede di rivedere la tassazione sui piccoli risparmi per evitare la penalizzazione delle esperienze di democrazia economica, si chiede di separare, ecco questo a me sembra fondamentale, le banche commerciali al servizio delle economie reali e gli istituti specializzati nel trading, perché è importantissimo appunto preservare quello che è l'uso corretto del denaro, che riguarda il reimpiego nelle attività economiche, e non nella speculazione che da denaro genera denaro secondo flussi incontrollabili, perché così è stato. E si chiede poi, nel famoso capitolo della Basilea per il sociale, di tener conto del rapporto dell'Unione Europea che segnala il ruolo cruciale del sistema delle banche etiche cooperative come risposta della crisi. Quindi mi pare molto importante adesso il ruolo che ha Banca Popolare Etica in Italia in particolare, ma anche le banche etiche europee, nel intervenire su quelle che sono le decisioni, i processi decisionali. Questi processi decisionali hanno a che fare anche con le idee di sviluppo. Si parla di decrescita felice, si parla di alternative allo sviluppo che tengano conto della condizione del nostro pianeta, delle risorse che non sono inesauribili, di un pianeta che è violato e che risponde per l'appunto con quelle che vengono chiamate emergenze ambientali. Il punto di vista di Banca Etica sul tema di sviluppo e decrescita è esposto molto bene in questo libro e vi invito veramente ad approfondirlo. A volte si sminuisce il discorso della decrescita confinandolo nelle tematiche del farsi il pane, nel crearsi il sapone, nel vivere in un Eden più o meno isolati. In realtà invece non proprio certe derive della decrescita, ma il discorso che lo sviluppo non può continuare così è assolutamente ineludibile. Se ne parla ampiamente. Sì. Allora accennalo. Sì, lo accenno poi. Vabbè, io vengo dal WWF, sono stato per tanti anni così attivista del WWF, sia a livello locale che a livello nazionale. E devo dire che in quell'ambito, io già negli anni 90, un altro dei miei grandi maestri, Gianfranco Bologna, parlava già, introduceva già queste tematiche che venivano quasi tutte dagli Stati Uniti, stranamente, e anche il discorso sul PIL, sulla differenza tra reddito e felicità, che è un discorso che è intervenuto dopo, però era già accennato, e soprattutto il discorso di modello di sviluppo e dei limiti delle capacità di carico del pianeta. Per cui arrivare poi a un momento di stop o addirittura di riduzione, non chiamiamola decrescita, non piace tanto questo modo di parlarne, però effettivamente un rallentamento e una riduzione del nostro impatto sull'ambiente, sul mondo che ci circonda, sulle risorse, è assolutamente indispensabile, lo dimostrano le statistiche, lo dimostrano gli studi, fior di scienziati, non lo diciamo noi, ci siamo resi conto che ci sono dei limiti e le crisi sono diverse e sempre più ravvicinate. Per cui i picchi, i famosi picchi, non c'è solo il picco del petrolio, per cui un giorno il petrolio non sarà più estraibile agli stessi prezzi e piano piano diminuirà, ma ci sono diversi altri picchi, c'è il picco dell'uranio, c'è il picco del rame, c'è il picco, cioè tutte le materie prime hanno un limite. E poi c'è il picco della terra, di cui parlo sempre nel secondo libro, ma che è anche un picco, nel senso che non stiamo utilizzando al massimo il territorio, non abbiamo più, soprattutto in certi paesi occidentali, gli spazi. E quindi diventa un problema anche di sopravvivenza del pianeta in quanto inquinamento, rifiuti e quant'altro, ma anche sopravvivenza della razza umana in quanto il territorio coltivabile è sempre meno. Una parte del territorio poi si depaupera per conto suo, un'altra parte viene cementificata, un'altra parte viene utilizzata per mille altre cose. E il cibo che, infatti io sostengo sempre che l'agricoltura sarà il futuro, tornerà ad essere il futuro, perché anche il territorio c'ha dei limiti ben precisi che stiamo superando, forse in qualche caso abbiamo già superato. Per cui c'è tutta una serie di limitazioni e di riduzioni che sono necessarie. Il discorso della crisi è un po' complicato. Noi abbiamo fatto, alcuni di questi amici erano presenti, anche con Pallanti, alcuni interventi, alcune giornate qui anche a Bolzano, non bisogna vedere la decrescita come un ritorno al pauperismo, assolutamente no. Bisogna vedere la decrescita come una opportunità di dare nuovi posti di lavoro in nuovi ambiti che non sono quelli classici di cui ci parla la Confindustria, di cui ci parlano gli economisti, quelli che vanno per la maggiore, mentre gli altri economisti nostri, che non appaiono tanto in TV, hanno, e qui anche vi invito di nuovo a leggere Becchetti, Bruni, Zamagni, hanno altre visioni dell'economia, e ci sono delle formule economiche come l'economia di comunione, che non è comunione di liberazione, o come l'economia steineriana, che danno degli esempi di un modello diverso di redistribuzione del reddito. È un discorso lungo, ripeto, magari facciamo una lettura e poi riprendiamo qualcosa. Credo che la prossima lettura, diciamo, sia quella dell'indignazione. Non posso sembrare. No, va bene. Cioè, nel senso che indignazione direi che è un tema che probabilmente ci coinvolge tutti. Una felice definizione. Essel, se non vado errata, Essel, sì. Compianto. Oramai, che parla di indignazione, nel senso che è la prima reazione che ci dovrebbe venire, per poi passare magari anche, che ne so, a decidere di dirottare i propri risparmi su banca etica o a fare, diciamo, delle scelte più rispettose dell'ambiente attraverso i nostri consumi, i nostri comportamenti di consumatori individuali, diventando consapevoli. Quindi leggiamo l'indignazione. Ma allora noi semplici cittadini, cos'altro avremmo potuto fare? L'analisi su possibilità e strumenti di cambiamento è a buon punto, ma il percorso di modifica delle abitudini è ancora agli inizi, frenato dalle nostre personali indecisioni e dallo strapotere dei mezzi di comunicazione che non trasmettono a sufficienza gli esempi di transizione che pure timidamente si affacciano sulla scena economica. Non sappiamo esattamente cosa possiamo fare e fino a dove potremmo arrivare. Il sistema, nella sua infinita miope generosità, continua a presentarci la stessa possibilità di scelta tra il capitalismo e il capitalismo, tra la crescita e la crescita. E questa viene fatta apparire come l'unica alternativa. Con sempre maggiore forza, ci rifiutiamo di accettare codesta realtà come destino e rifuggiamo da un mondo capace di negare la condizione umana alla maggior parte dei suoi abitanti. Un mondo dove, se è caduto il muro di Berlino, altri muri più escludenti si sono alzati e di conseguenza ci indigniamo. È già lo sdegno una buona reazione, quantomeno ci dimostra vaccinati all'indifferenza, alibi dei pigri e puntello di tutte le dittature. Sostiene Hessel, quando ci si indigna come a me ha indignato il nazismo, allora si diventa militanti, forti e impegnati. Si abbraccia l'evoluzione storica e il grande corso della storia continua grazie a ciascuno di noi. Allora noi, arrabbiati e obbedienti, andiamo nelle piazze, dimostriamo o ripetiamo un po' stancamente rituali e abitudini che avrebbero dovuto portarci lontano, verso un avvenire migliore, ma inspiegabilmente siamo ancora qui. Forse non basta indignarsi nelle piazze, forse è il caso di farlo in banca, al supermercato, a scuola, al bar, in municipio, probabilmente anche in parrocchia. Ovunque si siano smarrite intelligenza ed equità e la persona venga considerata solo un numero, un'entità consumatrice con annesso come corollario necessario ma non sufficiente il diritto di voto. Probabilmente in questo caso bisogna veramente metterci del proprio, rischiare e abbandonare qualcuno dei privilegi che questo sistema ha concesso a noi, al caro prezzo della nostra libertà, e ha negato invece ad altri che la libertà non l'hanno mai conosciuta. A proposito di questo, mi piace ricordare subito che i proventi di questo volume, una volta coperti le spese, andranno a Medici con l'Africa QAM. Mm-hmm. Sul tavolo ci sono, abbiamo portato alcune riviste recenti che parlano anche delle campagne per l'accesso gratuito come diritto alla salute dei popoli africani. Parlando tra l'altro di Africa, mi viene così accenno o passant alla tematica del land grabbing, cioè praticamente non basta aver privato il continente africano di molte materie prime, adesso si vogliono prendere anche le terre, ed è una, come dire, una tematica poco nota, ma grandemente preoccupante. Medici con l'Africa QAM lavora in cinque paesi, mi pare, cinque paesi dell'Africa subsahariana, e con uno spirito che, diciamo, è molto particolare. Noi abbiamo scelto questa organizzazione non governativa di sanità pubblica perché è riuscita negli anni a usare il denaro dei donatori in una percentuale altissima per i propri interventi sul campo, con quindi una ridottissima parte, si parla proprio di un 10-12% per il proprio mantenimento, per il mantenimento della struttura. Vi invito comunque poi a prendervi alcune riviste per conoscerla, perché so che in Alto Adige Medici con l'Africa QAM è poco poco conosciuta. No, diciamo, dove c'era gente che è andata a studiare medicina, che è andata a fare il servizio di un'altra. Ecco, molto. Io conosco questa, noi conosciamo questa organizzazione da moltissimi anni. E io spero che possiate poi vedere, che arrivi anche qua, il film di Carlo Mazzacurati, Medici con l'Africa, che è molto bello, molto coinvolgente. E analogamente vi invito a leggere un altro libro, che è Il bene ostinato di Paolo Rumiz. Probabilmente riuscirete a portarlo a Merano, perché è un modo per fare promozione per questa organizzazione con gli strumenti della cultura, che ci sono congeniali, molto molto di più che volantinaggi o altre cose. Torniamo a noi. Allora, il sistema in cui viviamo ha prodotto, secondo l'autore, e io condivido il punto di vista, per il consumo individuale più che per il bene comune, con ciò delineando una panoramica sui bisogni che si caratterizza in tre, diciamo, settori. Ci sono i bisogni primari, chiaramente comprensibili, insomma, sono quelli che tutti noi dobbiamo soddisfare quotidianamente. Ci sono poi i bisogni secondari e i bisogni indotti, che sono i bisogni indotti. Ed infine c'è un terzo settore, che è quello che ci interessa e che normalmente viene completamente negletto, che è quello dei bisogni di cultura, che sono i bisogni immateriali. Ce ne vuoi parlare? I bisogni. Poi c'è anche una lettura molto bella, magari la facciamo subito dopo la tua risposta. Sì, bisogna che rivediamo un pochettino le teorie economiche. La teoria dei bisogni, in primis, e la teoria dell'utilità marginale anche. Sono le poche teorie economiche che conosco, io ho fatto sociologia, quindi economia, però mi sono interessato anche dopo e ho approfondito e ho, appunto, riferendomi anche a letture precedenti, elaborato un po' questa tesi dei bisogni creativi o dei bisogni relazionali, che una volta soddisfatti i bisogni primari, come diceva Manuela, che sono il cibo, il vestire, la casa e quant'altro, insomma, che poi non sono tantissimi, ci fanno credere che sono tanti, però i bisogni per sopravvivere, o comunque per vivere decentemente, non sono molti. Per vivere con sobrietà, diciamo, quella che dovrebbe essere la cifra comune, no? Sì. I bisogni secondari sono stati praticamente rivisti e rielaborati fortemente dalla pubblicità dei mezzi di informazione di massa, e quindi ci sono stati indotti in noi. Pasolini parlava di mutazione antropologica, dei bisogni che non sono effettivamente così necessari, e con un sistema che fa sì che questi bisogni vengano continuamente riprodotti, si riduca il tempo di utilizzo di questi, di queste merci, non chiamiamole beni, che sono merci, per riproporre nuove necessità, nuovi bisogni, che facciano sì che noi ci sentiamo il bisogno di acquistare nuove merci, mettendoci anche in concorrenza. Uno dei meccanismi più importanti di questo, di questa situazione, è proprio la limitazione, il processo di limitazione con il nostro vicino di casa. Effettivamente questo è apparso dagli studi, no? Non possiamo avere di meno del nostro vicino di casa, magari anche qualcosa in più, dopodiché lui comprerà quella stessa cosa che abbiamo noi, e quindi saremo di nuovo pari e dovremo di nuovo riprendere. Per cui qui c'è stata una, ripeto, deformazione della nostra antropologia, per cui abbiamo considerato necessarie cose che non lo sono per niente. E poi ci sono i bisogni relazionali, quindi i bisogni di stare insieme, i bisogni di cultura, i bisogni di riflettere, il bisogno di aver tempo libero, e invece il tempo è stato molto violentato, e viene molto violentato nella nostra società. E invece ci siamo, lavorando, studiando e vedendo anche un po' quelli che sono le reazioni delle persone, le percezioni delle persone, che poi alla fine sono questi i bisogni che fanno la vita degna di essere vissuta. Cioè sono queste cose, lo stare con amici, lo stare in famiglia, il passeggiare lungo il mare, oppure leggersi un libro. Per cui dobbiamo riprenderci i nostri bisogni, dobbiamo riprendere l'utilità delle cose. La teoria dell'utilità marginale dice che il primo bicchiere d'acqua, quando si ha sete, vale 10, il secondo vale 9, il decimo vale 0. Per cui non è che possiamo avere tot automobili, tot televisori, tot telefonini, questo ci renda più felici. Mentre avere più relazioni non cala. L'utilità marginale della relazione non cala, anzi aumenta. Più abbiamo amici, più abbiamo contatti, più abbiamo relazioni, più la nostra felicità globale aumenta. Quindi ci hanno invertito la nostra antropologia, noi dobbiamo riappropriarci della nostra antropologia. Ciò ha a che fare con la ricerca del senso della vita, tutto sommato, che appunto non viene appagato dalle merci né dai consumi. La facciamo la lettura sui bisogni? I bisogni, sì. Va ribadito che un'altra visione del mondo comporta un'operazione culturale e di informazione improba per la sottomissione dei media al potere e al mercato, cosa che rende necessario un grosso sforzo da parte dei sostenitori di un'economia diversa, basato sull'utilizzo intelligente dei nuovi internet e dei vecchi strumenti di comunicazione, la parola e l'esempio, per una lenta trasformazione della coscienza collettiva. I tentativi di disinnescare il modello predatorio basato soltanto sulla crescita e le sperimentazioni di relazioni economiche alternative sono diffusi, e non da oggi, e ormai in tutto il mondo. Basati sulla giustizia sociale, sul rispetto dei limiti, sulla non violenza, sulla sussistenza moderna, come la chiamava Ivan Illich, riferendosi a una minore dipendenza dal mercato, danno buona prova di sé e dimostrano che anche in campo economico il cambiamento è possibile. Purtroppo però le loro dimensioni non rappresentano ancora quella risposta strutturale complessiva alla quale aspiriamo. Come detto, vanno ridisegnati i paradigmi del profitto e dei bisogni in nome di un sistema solidale che parta dal basso, dalle esigenze vere della persona. Va trasformato il concetto di profitto dall'accezione capitalistica di valore aggiunto per gli azionisti a bene comune in quanto risultato di tutti i componenti del processo produttivo. Il riequilibrio delle priorità nella valutazione dei bisogni costituisce l'altro passaggio con il riportare in primo piano i bisogni primari e produrre innanzitutto il necessario per tutti, e col rendere minoritari e facoltativi e socialmente costosi i bisogni secondari, che è risaputo sono quasi sempre indotti. Un'attenzione maggiore, infine, per i bisogni creativi e relazionali, spesso non monetizzabili o addirittura gratuiti, ma che sono quelli che rendono la vita degna di essere vissuta. È un maggior tasso di reciprocità e di solidarietà, ma anche di leggerezza, come dire, forse è meglio investire il nostro denaro in 3 ospedali in Africa che in una clinica privata in Europa. Ed è pure meglio costruire una sala teatrale dove ritrovarsi che acquistare 1000 televisori al plasma che ci trattengono in casa. Misure che di certo aumenteranno un pochino la nostra felicità, ma che contemporaneamente faranno anche diminuire il numero degli infelici e dunque l'infelicità complessiva. Io passerò tra poco la parola a Claudio perché presenti il promotore finanziario di Banca Popolare Etica qua a Bolzano. Ma prima mi premeva riprendere, riagganciarmi, a me piace questa ciclicità degli argomenti, quando lei parlava di cultura e dell'importanza del pensiero critico alimentato dall'incontro, dal libro, dall'incontro voluto, intorno al libro. Era voluto, diciamo che non era casuale. È una cosa qua c'è un passaggio che forse Claudio ha dimenticato, ma l'ha scritto lui, che mi sembra bellissimo. Ed è questo. È un pezzo di frase. La sensibilità simpatetica sviluppata dalla cultura alimenta la coscienza morale ed è nemica dell'ottusità, che invece è necessaria per i programmi di crescita che cinicamente continuano a ignorare le discriminazioni. Mi è venuto in mente il discorso, il disastro, l'incendio doloso della città della scienza di Napoli, ed è effettivamente collegato moltissimo. Cioè la cultura fa paura, perché la cultura è, tra l'altro, invita non solo al pensiero critico, ma anche al confronto, ma anche all'incontro. Il ministro del bilancio, no? Prego. Avuto il ministro del bilancio e delle finanze che ha detto che la cultura non fa soldi. Esatto. Ex ministro. Purtroppo io non lo considero ancora perché ho inciso tanto. Esattamente, è proprio questo. Ed allora io passo la parola a Claudio, e a meno che poi a me piacerebbe che la chiosa la facesse, scusatemi la mia passione, Lidia Menapace, due parole. No, io figurati sono pago. Ma prima è doveroso un tributo a Banca Etica. Sì, no, chiederemo anche agli altri una domanda. Io volevo approfittare e fare un po' di pubblicità a Progresso, visto che è venuto qua Alessandro Alberini, che è il nuovo promotore di Banca Etica. Se si presenta un po'. Lui, due parole, dai, solo per presentarti. Mi faccio girare tutti. No, vieni qua. Venga qua. Una domanda per chiudere. Due parole proprio. Sì, di qui sei, cosa fai? Perché secondo me. E dove sei? Allora, io sono in Banca Etica da pochissimo tempo, da 3 mesi. E, sono promotore finanziario e due cose su di me: ho fatto l'esame da poco tempo, l'ho fatto nel 2011, quindi sono fresco del diploma di promotore finanziario. Ho lavorato però da tantissimi anni nel credito, ho maturato un'esperienza di 14 anni in una piccola banca privata del Trentino, che sono trentino, la Valsugana per la precisione, e dopo 14 anni sono passato una cassa rurale, una banca di credito cooperativo, e sperando di trovare, in parte anche ho trovato, il modo di portare la mia professione in un sistema che in qualche maniera salvaguardasse maggiormente i diritti dei più deboli, potesse dare, concedere credito a chi magari era meno in qualche maniera affidabile, un sistema in qualche maniera più umano e più vicino alla gente. e prima ho sentito, purtroppo sono arrivato in ritardo, però ho sentito che si è parlato anche del credito cooperativo. Il credito cooperativo è comunque sicuramente meglio di un altro tipo di credito, è sicuramente più vicino alla gente, hanno dimostrato anche queste, è anche più sano, l'abbiamo stato dimostrato in più occasioni anche in queste ultime fasi della situazione attuale, insomma, economica di difficoltà. Però neanche nel credito cooperativo ho trovato proprio in pieno questo, purtroppo il credito cooperativo, qui faccio un battito molto veloce, dipende dalle direzioni, dipende dai consigli di amministrazione, ci sono tante cose che possono magari portare a allontanare un po' queste piccole banche locali da ciò per cui sono nate. Gli statuti dovrebbero essere più volte rivisti, presi in considerazione, un po' come la nostra Costituzione, tante volte dimentichiamo, anche gli statuti vengono dimenticati. Ecco, da qui poi mi sono avvicinato all'idea di banca etica perché mi sembrava, ho cominciato a interessarmi, ho conosciuto Becchetti, che l'ha nominato prima Claudio, che è il nostro presidente del comitato etico, facendo un corso in Trentino, e mi ha affascinato questa idea, mi pareva molto più fresca l'immagine di banca etica, questo tentativo proprio di riportare il credito in maniera più umana, più giusta, più etica, come lo dice la parola, questo tentativo di raccogliere denaro in maniera più pulita possibile e impiegarlo e prestarlo facendo una selezione, un'attenzione maggiore, non prestandolo soltanto in base a criteri economici, ma anche e prima in base a criteri diversi, come sono quelli proprio di un'analisi approfondita per sapere a chi stiamo prestando come banca i nostri soldi. Quindi mi sono avvicinato a questa banca e sono riuscito a trovare un accordo e ho dato le dimissioni da dove ero prima, poi è stato anche un bel lavoro e sono qui, una bella sfida anche per me, quindi ne approfitto anche così per parlare un po' due parole proprio sul fatto che si possono fare delle scelte, come diceva Claudio prima, personali, e facciamo anche nell'agire, nell'acquistare, col portafoglio, facendo le scelte, si possono fare anche delle scelte personali anche nel modo di lavorare, e questo vuol dire anche ancora una volta che non è soltanto il profitto che fa girare il mondo. Io per esempio se avessi dovuto guardare il profitto avrei dovuto stare dove stavo prima, guadagnavo di più, punto. E, è un po' come uno entra in banca etica, magari se dovesse guardare soltanto il rendimento dei titoli, magari fa un bel giro, va alla Mediolanum, va qua, va là, poi non è neanche detto, magari poi lo fregano anche, vabbè. Però in linea teorica magari trova la banca dove potrebbero anche dargli mezzo punto in più, punto in più. Io potevo stare lì e guadagnare di più. E, no, ho pensato che ci sono altri valori e per me era prioritario, quindi ancora una volta da sfatare il mito che solo reddito, solo inutile che fa girare il mondo. Certo, ci vuole anche quello, però è una delle componenti, non è l'unica. Ecco, quindi poi torno ai giorni nostri, sono qua da pochi mesi e l'ufficio è in via Buozzi di fronte a Fiera di Bolzano, e però ci tengo proprio anche a dedicare un giorno intero e forse faremo qualche cosina di più, vedremo in base un po' alle necessità, a Merano, dove ho trovato veramente a Merano, adesso non è per sviolinare Claudio e i suoi amici, però veramente c'è un territorio molto fertile, c'è veramente una grande attenzione. A Merano veramente ci sono tante persone che hanno proprio vissuto fin dalle origini questa voglia di partecipare a un progetto diverso. E quindi a Merano ci dedico sicuramente tutti i lunedì, oggi sono arrivato in ritardo anche per questo. Io da Merano ho avuto un problemino e quindi questo è il giorno che dedichiamo a Merano. Poi comunque abbiamo il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per Bolzano, il mercoledì lo tengo il suo appuntamento perché poi do anche una mano in un'altra zona se c'è bisogno, però il martedì ci sono proprio scritto dipinto sia il giovedì che il venerdì, quindi per qualsiasi necessità sono lì, lì possiamo fare qualsiasi tipo di operazione, possiamo ad eccezione di raccogliere il contante, quello non posso, però possiamo ricevere assegni, possiamo aprire conti correnti, possiamo predisporre la documentazione per fare gli investimenti, i fondi comuni di investimento, possiamo anche raccogliere domande di credito, e quindi anche piccoli prestiti, mutuo casa, tutto, banca, tutto pronto. E ci tengo a dire, sono da solo, quindi i tempi magari a volte, ecco una delle cose di cui banca etica magari qualche volta siamo un attimo di fatica, ma perché la banca sta piano piano crescendo e anche perché abbiamo tante richieste, anche non mi rendo conto, pensavo di arrivare qui e di far fatica a trovare lavoro, invece lavoriamo tanto proprio sulle richieste, quindi c'è tanta domanda, quindi magari ogni tanto siamo un attimo un po' in affanno a correre dietro a tutto a quello che dobbiamo fare, però riusciamo a seguire un po'. Grazie. Sì, qui abbiamo diversi soci già presenti, per cui magari avevo piacere che ti conoscessero. No, scusate se ho parlato un po' troppo. No, ma c'è anche. Sì, possiamo benissimo. Apriamo allora le domande e poi vediamo alla fine cosa. Ma un po' ghiaccio io. Una domanda e una constatazione. La zona dove noi abitiamo è stata molto importante proprio per l'inizio della banca etica, per i trascorsi, CTM, eccetera, eccetera. Se puoi illustrarci un po' come è nata questa esperienza interessante del nostro ex presidente appunto di Banca Etica, che ha lavorato qua per diverso tempo e l'idea forse è nata proprio qua a Bolzano. Ecco, invece una constatazione, proprio in base a quello che diceva Manuela, perfetto. Io sono di Manuela, e quando diceva, ha fatto vedere quel foglio dove erano presenti le domande che sono state fatte ai politici, mi piacerebbe sapere innanzitutto le risposte se qualcuno ha risposto. Sì. Ma proprio una constatazione, molte forze politiche anche si fanno un po' patrocinatori di queste idee, e sta diventando un po' di moda lo sviluppo responsabile, la finanza etica, e stare attenti a dove noi mettiamo i soldi. Dobbiamo stare attenti noi stessi però che questa non diventi una moda, sì, che non sia un modo così per sfruttare l'onda di queste istanze. Per cui abbiamo visto anche il fiorire di tante linee etiche di banche che hanno un settore marginale etico e che invece continuano i finanziamenti tradizionali. Probabilmente rende forse anche finanziariamente, ma anche come opinione. E quindi è bene aprire gli occhi su quello che può succedere e non credere sempre che tutto quello che prende la denominazione di etico, di finanziariamente etico, poi lo sia realmente. Ecco. Quindi devo dire che essendo ormai socio della banca da tanti anni, devo dire che io quando faccio degli investimenti sto molto attento, ecco, dove vanno a finire, e ottengo sempre delle risposte molto valide, perché io so esattamente dove la totalità del mio finanziamento va a finire e lo decido io. Ecco, non so se sarà sempre così nelle altre realtà. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Sì, rispetto alla prima domanda, sì, è vero che alcuni programmi di banca etica sono nati a Bolzano, perché due dei principali promotori della banca lavoravano con CTM, quindi venivano addirittura via Conciapelli qua al magazzino a pacchettare le cose da giovani. Poi hanno deciso cosa fare da grandi, hanno detto forse, ma non solo, è necessario che cominciamo ad avere una gestione dei soldi e che ci facciamo una banca. Tra l'altro una vecchia idea anche di Alexander Langer, tanto per cambiare, che ci voleva una banca con uno sportello, con un mercato, e non solamente una raccolta di fondi così, una tantum per fare un progetto. Però non solo loro, quando è iniziata la strada per la cooperativa verso la banca etica, è stato fatto un appello a tutte le grosse organizzazioni nazionali perché partecipassero sia col capitale che con... E devo dire che una ventina hanno aderito, anche di quelle molto, molto importanti, tipo le ACLI, l'ARCI, i sindacati, insomma, strutture che effettivamente pesavano a livello nazionale, anche se poi magari hanno dato meno alla banca di quanto ci si aspettasse, perché anche loro erano in attesa di vedere un po' come se la cosa funzionava, se stava in piedi da sola. Adesso sono 14 anni da meno stato che sia in piedi, e quindi abbiamo sempre nel consiglio di amministrazione tre persone che fanno parte di questo gruppo di soci fondatori e che quindi sono all'interno della governance della banca, insomma. Sì, è vero, è nata qua, anche se poi qua non ha avuto lo sviluppo che avremmo voluto, o che avrebbero voluto i fondatori, non mi metto tra quelli, perché anche qui ci sono sempre le guerre tra i poveri. Tra di noi persone che lavorano nel sociale, che cercano di trovare nuovi modelli, che cercano di cambiare la società, c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente, insomma, e non si riesce ad avere quella coesione che ci vorrebbe. Sulla seconda cosa, le domande che sono state fatte ai politici, c'è il rischio che vengano strumentalizzate, che vengano strumentalizzate per fare una specie di ethical washing, no? Gli diamo una pitturata di etico e poi continuiamo a fare le cose che facevamo prima. Per dire vero, hanno risposto i tre leader politici, ha risposto Bersani, ha risposto Vendola, ha risposto Ingroia, e hanno risposto appunto assicurando che c'era attenzione sulle cose che noi presentavamo, che chiedevamo, soprattutto sulla gestione, sulla tutela dei piccoli azionisti, perché proprio recentemente il governo tecnico aveva posto delle tasse, dei bolli che praticamente potevano stroncare il piccolo azionariato. In effetti sono un problema per noi, perché sono dei costi che dobbiamo affrontare come banca o come singoli risparmiatori. E poi bisogna che, voglio dirlo, che queste persone siano conseguenti. Cioè, alla fine c'è un nuovo Parlamento, tra i nuovi parlamentari più di 20 hanno aperto il conto in Banca Etica per depositare il loro stipendio, non so come si chiama, allora. Però sono tutti di 20 nel Movimento 5 Stelle per adesso. Per cui aspettiamo che gli altri vengano da noi per vedere se effettivamente il cambiamento è una mano di vernice oppure se è effettivo. La rivista Valori si sono dimezzati l'appannaggio. La rivista Valori, tra l'altro, appunto, ha raccolto le risposte di questi leader politici, e il prossimo numero dovrebbe approfondire ulteriormente la tematica, perché come dire, si tiene il fiato sul collo, perché non possono eludere questi impegni. Certo. Sì, fra l'altro ha citato una nostra rivista. Noi come gruppo Banca Etica abbiamo, oltre alla banca e Etica SGR, che è la nostra società di gestione del risparmio, abbiamo una cooperativa editoriale, di cui fa parte anche Emanuela, che edita questa rivista Valori, che è una rivista di economia ma non solo, di internazionale, di solidarietà e quant'altro, molto, molto quotata, devo dire, molto attenta a tutto. E tant'è che arriva alla seconda, alla terza risposta che le dobbiamo sull'attenzione verso, come dire, l'appropriazione da parte di terzi di contenuti che sono fondamentali per noi e su cui è nata Banca Etica. Di sostenibilità parlano tutti talmente tanto che non vorrei quasi più neanche usarlo questo lemma, questo vocabolo. Analogamente di etica, come dire, storpiano nell'uso il vero contenuto della parola, per cui vigilare ci mancherebbe. Certo che anche il commercio equo e solidale è stato, come dire, pesantemente inquinato dal proliferare di negozi etici, dalla moda etica e via discorrendo, dalla solidarietà, e quello che sono i valori autentici bisogna, come dire, sempre tenerli come fondamentali e soprattutto diffidare laddove c'è veramente commercio puro senza sottendere degli impegni reali per lo sviluppo, ad esempio, del sud del mondo, laddove si parla di commercio equo e solidale, per l'attenzione verso i produttori di artigianato ma anche di cibo del sud del mondo. Analogamente, per quello che riguarda i fondi di investimento etici, quello che è il leitmotiv del nostro esistere, cioè il pensiero critico, va applicato anche laddove si dovrebbe essere maggiormente tutelati. Sicuramente è così. C'era una signora che aveva una domanda. Io volevo solo chiedere Se ci sono dei collegamenti, se è possibile sicuramente fare un codice etico in maniera più condivisa e più, diciamo, diffusa. Perché leggevo anche un libro, L'economia canaglia, della Napoleone, no? E forniva tutto un, chiaramente un profilo, prima di leggere il suo, di quello che è la, lato oscuro, insomma, dell'economia mondiale, di questa finanza creativa, di quello che è successo in questi ultimi 20 anni, le varie crisi, e soprattutto però la conclusione a cui è arrivata, le varie conclusioni a cui è arrivata, una che mi ha colpito molto è stata quella di individuare nel codice etico dell'economia dei paesi musulmani una forza che ha impedito loro di arrivare ad una crisi, diciamo così, pesante come si è verificata nel mondo, negli altri paesi a livello mondiale, pur avendo anche questi, tipo l'America o altri, altre potenze, delle materie prime esattamente come i paesi musulmani in questione, no? Quindi questo mi ha un po' colpito, ecco, diciamo che effettivamente l'attenzione o certe anche limitazioni che vengono poste, adesso lì è un motivo religioso, però comunque c'è un codice che viene dato, potrebbe essere visto come una limitazione, come una cosa fuori dal tempo, in realtà ha salvato delle economie in una maniera clamorosa che non mi sarei, ecco, aspettata. Sicuramente questo è così. Guardi, la rivista Valori, per tornare là, ha dedicato moltissimi numeri alla finanza islamica, perché effettivamente la finanza islamica, lo riprenderai magari tu, sì, approfondendo questo argomento, avendo dei limiti al discorso dell'indebitamento, che non sono solo religiosi, sono anche morali, molto molto tra virgolette democratici, molto molto rispettosi della dignità umana, ciò che la finanza convenzionale, la nostra finanza, non ha. Ed è un aspetto di grandissimo interesse, perché effettivamente il mondo islamico, il mondo arabo in generale, perlomeno questa caduta non l'ha avuta. Quindi ha ragione. Nel contempo, per quello che riguarda la finanza etica, c'è il manifesto della finanza etica di cui... No, prima di parlare dei codici etici che ci sono in circolazione, ce ne sono tanti e la maggioranza sono disattesi, perché sempre per questo famoso discorso dell'ethical washing. Per quanto riguarda la finanza islamica, io sono un po' in controtendenza rispetto a Manuela, perché è vero che ci sono queste regole che non accettano il tasso di interesse, è vero che ci sono queste regole che dicono che bisogna prestare i soldi, tra le famiglie si devono prestare i soldi se uno è in difficoltà e quant'altro. Nel contesto globalizzato queste cose non funzionano. No, sono d'accordo sui fondi sovrani, non ne parliamo. Non solo, sono intervenuti i governi. Anche il rifiuto dell'interesse che loro chiamano, non ricordo più in che nome, viene come si dice girato con delle strategie, con delle stratagemmi che poi alla fine non sono poi effettivi, nel senso che noi abbiamo molti contatti con il mondo islamico, cioè abbiamo un esperto del mondo islamico che è Riccardo Milano, che ha scritto parecchie cose su quello, però anche personalmente abbiamo avuto dei contatti con i musulmani di Merano, di Bolzano e anche di altre parti d'Italia, dove in effetti l'applicazione di interessi non è scritta, ma viene fatta attraverso altre forme, un po' come fa la Eik Bank svedese, che ti dice che non applica interessi e poi ti mette i costi, ti mette le spese, ti mette quelle... Per cui anche lì purtroppo, cioè, e poi c'è effettivamente il discorso dei fondi sovrani, loro hanno il petrolio, quasi tutti. Quelli che non hanno il petrolio non si sono salvati come gli altri, quelli che hanno il petrolio si sono salvati perché hanno investito in tutto il mondo e quindi hanno comunque investito nella economia capitalistica speculativa come tutti gli altri. I codici etici, anche noi abbiamo un codice etico interno chiaramente come banca etica e abbiamo una struttura che soprassiede al fatto che questo codice etico venga applicato, ma come diceva Alessandro, sulla Costituzione è scritto, però non tutto è applicato ancora. Figuriamoci sulle altre banche che hanno il codice etico, hanno dei comitati etici fantoccio, perché ti nominano un sacerdote, un economista, una persona che ha lavorato nel sociale come comitato etico, ma poi questi non si trovano mai. Quindi, qualche comitato di garanzia? Sì, ma così sulla carta, poi alla fine non è come il nostro comitato etico che si trova regolarmente una volta al mese e che elabora una serie di passaggi e di controlli. Che, no. Vabbè. Un'altra cosa che volevo dire rispetto alla finanza etica invece che ho dimenticato di dire è la trasparenza. La trasparenza che le altre banche non hanno, noi cerchiamo di averla al 100%. Chiaramente non si può, per esempio, i finanziamenti delle persone fisiche non si possono pubblicare perché sono coperti da privacy, però i finanziamenti delle persone giuridiche sono tutti pubblicati sul nostro sito, quindi voi potete sapere in provincia di Bolzano quanti soldi abbiamo prestato, a chi, soprattutto all'Arci. No, fate scherzi perché sono il nostro miglior cliente in Alto Adige, e quindi queste cose sono trasparenti e si sanno, giustamente, perché un risparmiatore ha diritto di sapere dove vanno a finire i suoi soldi. Come si fa a evitare che un'azienda che ha ricevuto un supporto, un finanziamento per un'attività, ad esempio nell'economia verde, poi non faccia questo discorso, cioè va bene, faccio un'automobile da 100 cavalli a benzina, adesso ci metto un motore elettrico verde, eccetera, la faccio allora da 300 cavalli, alla fine continuo a riconsumare quanto prima, cioè globalmente bisogna anche tener conto del livello globale poi delle cose, che vedo fare un po' questo discorso, no? Allora siccome posso fare 40 con un litro, no, ritorno a fare 20 con un litro perché la faccio doppia. E allora alla fine non ha più senso questo discorso della sostenibilità, è un po' il discorso che si diceva prima, la sostenibilità va vista in chiave globale. Ho recentemente letto Collasso, il libro di Diamond, che parla appunto delle crisi ambientali, dove l'autore elenca 12 cause di crisi globale delle società, e dice che se anche una sola di queste non viene controllata, vanifica il controllo delle altre 11. E questo è un po' il discorso, secondo me. Cioè, quindi come si fa a livello, capisco che una banca non può controllare i destini dell'umanità, però cosa si può fare dal punto di vista appunto dei codici, eccetera, per evitare che poi un'azienda inizi in un modo e debordi? Ma c'è un'altra piccola cosa che forse non abbiamo detto, che Banca Popolare Etica ha una fondazione culturale che ecco, è importantissima, la Fondazione Culturale di Responsabilità Etica, che vigila e che soprattutto elabora strumenti di pensiero nuovi, attenzioni nuove. Ad esempio sul tema della legalità c'è SCOR, che è una come dire, un'organizzazione che vigila sul crimine, sul mondo criminale legato alle energie rinnovabili, perché come diceva giustamente lui, non è solo un settore dei furbi che approfitta della finanza etica per magari piccoli tornaconti personali, c'è tutto un mondo della criminalità organizzata che si insinua laddove c'è possibilità di fare business. Sì, e poi c'è il discorso di tutta la filiera che si determina anche, perché ad esempio posso ottimizzare i consumi energetici con delle smart grid, queste reti intelligenti, eccetera, che però usano dei materiali che poi magari sono prelevati in Africa, danneggiando e inquinando le falde, o danneggiando i contadini, o tirando sui metalli col mercurio. Cioè, allora come si fa a tenere? Sì, la domanda chiaramente non ha una risposta definitiva, perché qui si instaura un fenomeno di cui io non ricordo più il nome, che fa sì che la tecnologia che ci fa risparmiare risorse, energia e altro venga utilizzata per continuare ad aumentare i consumi. Esatto. Esatto. Per cui, allora, a questo punto, intanto è il consumatore che deve essere vigile, purtroppo se tocca sempre a noi. L'istituzione, una banca, come dici tu, non può farlo, lo fa in parte perché noi facciamo delle valutazioni sociali per ogni progetto che finanziamo, quindi diamo i soldi solamente se il progetto è in questo senso, il progetto ha un senso di produzioni ecologiche, produzioni non impattanti, produzioni che usano magari risorse rinnovabili, eccetera, eccetera. e anche la nostra, il nostro pacchetto di azioni che Etica SGR vende come nei suoi fondi è fatto su una valutazione, su una griglia doppia di valutazione, una griglia che viene fatta dalla, da una società inglese di matrice sindacale che fa la prima griglia e poi dal nostro comitato etico che fa la seconda griglia. Quindi passano solamente quelle che in inglese, scusate, ogni tanto bisogna usarlo, si chiamano best in class, cioè le migliori aziende di ogni settore metodologico, migliori non nel senso che fanno le cose migliori, più belle, più, più dei design, ma migliori nel senso che applicano i criteri di responsabilità sociale e ambientale che noi richiediamo. Le altre aziende per noi restano fuori, non ci sono nel nostro pacchetto, è già qualcosa. Poi andiamo nelle assemblee, cerchiamo di spingere perché queste cose vengano migliorate o cerchiamo di criticare quel che c'è. Sono due linee, l'azionariato attivo, che è quello che attiva appunto il miglioramento, e l'azionariato critico, che è quello che invece va a criticare. E tutte e due si fanno contemporaneamente, ma in aziende diverse chiaramente. Il critico su Enel e Eni e quello attivo su aziende che invece sono già a un buon livello di responsabilità. Comunque la rivista Valori, che io vi invito assolutamente a conoscere, presenta uno screening puntuale su tanti settori, dall'alimentare adesso al tessile, e analizzando punto per punto quelle che sono le criticità di aziende, marchi, brand a livello internazionale, per cui è già un argomento di conoscenza, è solo la conoscenza che ci preserva in fondo. C'era Maria, scusa. Sì, io purtroppo fra poco devo andare, però mi preme questa domanda. Io sono socia di Banca Etica e mi sono iscritta poco fa anche a Cicare Rochet. Mi piacerebbe capire come questi due mondi o queste due idee possano mettersi insieme. Sì, allora Enzo ha colpito ancora. No, scherzo, io conosco molto bene Enzo e non tanto bene il mondo dello Rochet. Non si può sapere tutto. Si tratta di due economie vicine e compatibili. Lo SHEC si può usare solo a livello locale. L'euro bisogna usarlo a tutti gli altri livelli. Quindi se a livello locale penetra il discorso di SHEC, cioè della moneta locale, creando anche un circuito di aziende, di consumatori che la utilizzano, noi siamo favorevoli perché comunque aumenta il grado di coinvolgimento della popolazione, del cittadino, del consumatore. Si riducono certi costi e comunque non sono incompatibili le due cose, perché poi nelle grosse operazioni, finanziamenti o quant'altro, il denaro, come dico nel libro, sarà sempre, non dico purtroppo, ma sarà sempre necessario utilizzarlo a diversi livelli. Se poi riusciamo però a creare delle economie locali più leggere e più semplici e che creino posti di lavoro, come stanno creando in alcuni posti, in alcuni luoghi, queste operazioni di moneta locale, che poi in certi paesi esistono da decenni, in Svizzera, in Germania, che non hanno intaccato l'economia del posto, anzi, per cui sono assolutamente compatibili secondo noi. Era Bernard? Sì, allora vorrei dare una risposta magari a lui. Sono dell'associazione, della Federazione Economia del Bene Comune, e questo movimento è nato in Austria e in Germania, e adesso c'è anche la Federazione Italiana, e questo movimento ha sviluppato uno strumento di misurazione proprio anche di questi aspetti dei quali parlava lei, della sufficienza, quanto mi serve veramente, e al di fuori degli aspetti dell'efficienza, del sociale, dell'ecologia, e questo è praticamente uno strumento globale per misurare quello che fa di bene un'azienda o un'organizzazione. Tutte quelle aziende che vogliono fare questo bilancio del bene comune lo possono fare, se si può scaricare da internet, viene anche monitorato esternamente. Noi come Federazione delle Economie del Bene Comune abbiamo iniziato una collaborazione con Banca Etica e abbiamo iniziato questo processo di scambio di idee per cui andiamo avanti a sviluppare anche insieme non soltanto questo pensiero, ma anche queste azioni. E adesso nel Sociorolo ci sono già 30 aziende che hanno fatto questo bilancio del bene comune. Adesso ci sarà anche una regione del bene comune, Val Venosta. Comunque si sta propagando questo movimento e praticamente un'analisi concreta già per adesso delle aziende. E poi magari anche per tornare al suo discorso, i valori principali dell'economia del bene comune sono quelli, come ha già spiegato Claudio, è la ricerca della felicità con la coscienza. Sappiamo che tutto quello che ci rende felici non sono i fabbisogni materiali, sono in prima linea quelli immateriali come la stima, la solidarietà, e questi sono valori che non venivano tante praticate nell'economia normale, però sono importantissimi per stare bene e rendono anche di successo l'economia nuova. Farei no, l'ultima, perché se no tu avevi alzato la mano prima, scusa. Vabbè, se siete veloci facciamo due, poi però vi ricordo, se volete andare via, che c'è il libro in vendita, altrimenti sì, sì. A 12 euro. Va bene, scusa. Tu avevi parlato della revisione, la necessità di una revisione degli istituti internazionali di regolamentazione. Volevo chiederti, queste sono sempre comunque delle forme di democrazia o di rappresentanza o di delega. Non pensi forse che sia meglio una democratizzazione diretta, cioè quella dal basso, che permette dei cambiamenti? Abbiamo visto anche in Italia, insomma, con il referendum, ci sono stati dei cambiamenti solo perché la popolazione ha partecipato con degli strumenti diretti, perché la democrazia indiretta, insomma, mi sembra abbastanza in crisi e non molto, cui le persone non danno più molta fiducia, perché effettivamente è difficoltà di funzionamento. A mio parere ci vuole un mix delle due cose, perché sto parlando a livello mondiale, mi sembra un po' difficile fare, io però, ripeto, nel mio libro cito alcune raccolte di firme tramite internet a livello mondiale che hanno avuto successo, e in effetti diciamo che ci vuole un mix, perché alla fine la delega è quasi necessaria, questo è il mio parere, ripeto, perché non si può decidere tutto solamente in via referendaria tramite internet, ma ci vogliono degli organismi anche, e tu devi pensare che ci deve essere anche un organismo giudiziario, per esempio, non è che possiamo fare i giudici noi tutti quanti cittadini, cioè un giusto mix però ci va, e ci va anche la democrazia diretta, assolutamente. In che forma, stiamo ancora parlando a livello molto utopistico, per cui possiamo ancora così sbizzarrirci a parlarne come vogliamo. Io credo che oggettivamente ci voglia un mix delle due cose, democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Sì, io volevo riprendere un attimo un intervento che avevo fatto e anche riallacciarmi a quello che aveva detto la signora prima. L'intervento che avevo fatto a Merano subito dopo la rappresentazione di quello spettacolino teatrale. Due cose fondamentalmente: la visibilità di Banca Etica, che attualmente mi pare ancora relegata ai minimi per quello che vedo almeno sulla stampa online e in altri posti, e la formazione di una coscienza critica. Scusate la constatazione, ma vedo che l'età media qua non è proprio di quelle più giovani. Ecco, è una cosa che mi viene da pensare, perché se c'è stata la crisi probabilmente è stato anche per l'ignoranza delle popolazioni su determinate tematiche quali quelle economiche. Non essendo noi formati, capita che ci avviciniamo ai temi della finanza etica casualmente, perché magari siamo già sensibili per predisposizione naturale a determinate cose, però nessuno ce le viene a spiegare. Per esempio, se Banca Etica ha intenzione, quindi da questo punto di vista, di favorire un processo di formazione della coscienza critica, per esempio a livello delle scuole superiori. Posso risponderti? Già capito. Un attimo solo, ah, sì. e poi anche siamo bombardati da banche che ti offrono il 4,5% e non ti danno spese, almeno ai più giovani, creare delle condizioni di credito agevolate, privilegiate, per far capire che, va bene, intanto ti vengo incontro, tu capisci cos'è che stai facendo con i tuoi soldi e poi però diventi anche un po' più saggio nell'utilizzo dei tuoi soldi stessi quando inizierai a diventare autonomo economicamente. Allora, riguardo alla prima osservazione sulla nostra presenza sui media, devo dire che innanzitutto non abbiamo soldi per fare pubblicità, ma questo è intuitivo. Cerchiamo di farla soprattutto con i mezzi che abbiamo sul territorio, quindi la facciamo noi volontari, perché siamo volontari tutto sommato, abbiamo degli strumenti come la rivista, come è chiaro che poi sui media ci vai quando hai l'attualità. Infatti ultimamente siamo molto di più sui media rispetto a prima, perché più la crisi si acuisce, più vengono a cercarci. Quindi la Rai 3 ieri c'era il nostro presidente della Fondazione Culturale, ci chiamano, era anche a Ballarò la settimana scorsa, lo spazio è poco, diciamo, però ci stanno arrivando da noi pian pianino, ci hanno un po' snobbato, soprattutto i nostri ideologi, che li abbiamo dei professori di economia che seguono linee diverse rispetto all'economia tradizionale, appunto l'economia della fisicità, l'economia del bene comune, l'economia, però hanno poco spazio, non si vede mai nel talk show, non si vede quasi mai, non si sente quasi mai la radio. E purtroppo questa è l'informazione attuale, io ne parlo in questo libro neanche, e questa è la situazione. Spazio ce lo creiamo piano piano con il buon lavoro, con la trasparenza e anche grazie alla crisi, se vogliamo. Il problema della formazione, noi nelle scuole abbiamo molto, magari qua a Bolzano l'abbiamo fatto poco, però noi in Italia lavoriamo moltissimo con le scuole, ho fatto anch'io qualcosa qui al Liceo Torricelli, in qualche altra scuola, anche in lingua tedesca. È un lavoro capillare, è un lavoro che poi essendo volontari bisogna fare nei tempi, però è chiaro che ci teniamo al discorso, ci mancherebbe poi un discorso anche che tocca il lavoro, il giovanile e quant'altro. Noi finanziamo molte cooperative di giovani imprenditori e imprenditrici. In effetti, e poi anche abbiamo qualche prodotto per i giovani, non possiamo fare dumping finanziario perché non abbiamo i margini che hanno le altre banche, ma abbiamo un prodotto per i giovani fino a 30 anni e ci stiamo lavorando continuamente. Mano a mano che cresceremo, che avremo anche una redditività più certa e più stabile, e potremo anche, siamo attenti a queste categorie, agli immigrati, ai giovani, alle nuove povertà, e li finanziamo dove possiamo, e abbiamo anche degli strumenti, dei conti correnti con costi abbastanza, ma non possiamo fare conti correnti a costo zero, non dico quello, non ci arriviamo. Scusate, volevo dare la parola un attimo a Lidia, poi sì, chiudiamo, sì, perché sì. Prendo la parola, l'avrei presa, ma comunque sì. Così invitata addirittura. Ho inventato anch'io un'economia, si chiama economia della riproduzione, e parte dalla constatazione che mettere al mondo qualcuno è un lavoro che non occorre che sia pagato, ma però non deve essere detto gratuito perché non è pagato. È un lavoro che comporta cambiamento della società in modo che mettere al mondo qualcuno non sia né un'infelicità, né un rischio, né una follia. Questo comporta, per esempio, che se tu vuoi tenere conto della riproduzione umana, devi tenere conto che bisogna considerare che se le donne smettono di fare questo lavoro, in due generazioni l'umanità è finita, quindi converrebbe tenere conto che è un lavoro importante, eccetera, eccetera. Questa economia è della riproduzione biologica, della riproduzione domestica, che è un doppione perché economia vuol dire legge della casa, e della riproduzione sociale. Mi interessa particolarmente questa cosa della riproduzione sociale, che riguarda per l'appunto sanità, scuola, istruzione, tutto quanto, che generalmente sono considerati, diciamo, spese invece che essere produzione di ricchezza. Io sono molto interessata al discorso del pensiero lento, perché penso che noi, se la vita umana si prolunga, non capisco per quale ragione dobbiamo restringere il tempo della formazione e allargare quello del lavoro. Il contrario bisognerebbe fare, avere molto più tempo, molto più lentamente disteso per la formazione delle persone, perché possiamo fruire della ricchezza di 2 o 3 o 4 o 5 o 27 economie solo se siamo in grado di leggere l'economia. Se continuiamo con una scuola dove leggere, scrivere, fare di conto, punto e basta, bambini e le bambine ballano, cantano, danzano, ma a scuola questo è vietato. Invece bisogna avere una scuola con un'alfabetizzazione totale dove tu impari a leggere tutti gli alfabeti, compresa l'economia, compresa la fotografia, compreso però il ballo, la danza, tutte le forme dell'espressione umana. Non voglio farla lunga, ho scritto anche un libro, quindi prima o poi ne parleremo. Mi interessa moltissimo che ci sia questa grande varietà di espressioni. Non vorrei che adesso ci si mettesse d'accordo per un, che lavorino in maniera non concorrenziale, non cattiva, d'accordo, ma non trovare sempre la sintesi. Io considero sintesi quasi una parolaccia, una delle poche parolacce che conosco, perché preferisco la molteplicità. Quindi mi interessa moltissimo, per esempio, che queste cose molteplici vengano sempre viste nella loro dimensione concreta e generale, perché altrimenti si finisce nel, se si fa la moneta locale va benissimo, purché non si finisca nel localismo, cioè purché si sappia che la moneta locale ha un significato dentro un'idea generale di un'economia dove per esempio la moneta e il denaro hanno il valore di eccetera eccetera. In generale, per l'appunto, non mi piacciono i racconti generalissimi cosiddetti utopici, però non mi piace nemmeno un concretismo piccolissimo, minuto, che dopo fa fare delle polemiche inutili. Io mi ricordo quando tutte le volte che si ha paura che la Lega, se la Lega diventa federale, chissà cosa succede, se succede, lasciate che succeda, voglio vedere chi se ne prende, perché in Austria e in Svizzera le tasse si pagano, quindi per succedere verso quei paesi lì bisogna che diano delle garanzie, insomma, un po' diverse da quelle che sono richieste nel nostro amato paese. Ho detto queste cose così alla rinfusa per dire che mi sembra un momento particolarmente fertile per la produzione di pensieri critici, di pensieri di tentativi, di stare attenti nelle statistiche. Non è importante il fenomeno che dal 91 passa al 91,5, ma è importante dove torna indietro, dove fa un picco in un'altra direzione, che forse apre una strada conoscitiva. E questo credo che sia, che avvenga non per caso, ma avviene perché siamo nel mezzo, credo, forse un pochino più in là, di una crisi a cui vale però che si desse sempre il suo nome giusto. Non è la crisi economica, la crisi finanziaria, è la crisi capitalistica. E questo enorme sistema che ci ha messo 2 secoli e mezzo a costruirsi, che ha un capolavoro straordinario, che è il modo di produzione capitalistico industriale, però è anche un modo, come dire, onnivoro, vuol mangiarsi tutto. La scuola diventa un'azienda, l'ospedale diventa un'azienda, ecco, è questo che bisogna impedire, con altre economie che tengono conto dei valori etici, della presenza delle donne che riproducono, varie altre forme. L'importante è che ci sia una molteplicità non riducibile di risposte umane ai vari problemi, perché altrimenti si può avere la democrazia nel senso che votiamo tutti i giorni lo stesso, siccome si vota sul niente, su delle cose sono già decise altrove, voti solo per dare una specie di sanzione, di conferma. La democrazia è un nome che non ha più nessun contenuto, mentre se rimangono questa molteplicità di punti di vista molto ancorati, mi chiamano la teoria d'occasione, prendono spunto da un'occasione, non nel senso mercantile del termine, non il 30% in meno, ma nel senso montaliano del termine, no? Allora, da un'occasione, e però lo vedi nella sua espansione generale. Credo che imparare a pensare in questa maniera sia molto importante, e bisognerebbe appunto che la scuola venisse attrezzata in questo senso. Torno evidentemente al mio discorso, dove per sostenere la molteplicità delle ipotesi economiche diventa molto importante avere una scuola che alfabetizza in generale tutto, non che continua a ridurre. Non è importante distribuire dei computer è importante come si legge un quadro, come si legge una musica, come si legge un paesaggio, come si legge. Perché dopo non è necessario che io sappia anche disegnare un paesaggio, ma che sia in grado di leggere il disegno di un altro, che capisca le lingue, le espressioni, e in questo senso che non censuri nessuno non nominandolo. Per cui per esempio il linguaggio incluso deve essere sempre uomini e donne, ragazzi e ragazze, precari e precarie, è assolutamente fondamentalissimo, perché come niente fa un'operazione di allargamento dell'umanità che altrimenti rimane sempre fatta solo con l'uso del maschile. Come sapete è stato inventato dai umanisti del 400, che erano persone squisitissime, ipercolte, eccetera, che hanno fatto questa piccolissima regola che dura più di qualsiasi dogma. In Italia le concordanze sono al maschile, e poi c'è un pezzo che nessuno più dice, come genere nelle concordanze prevale il maschile, e poi dice come genere più nobile, questo dicevano loro. Quindi per piacere, no, non pretendete che ci riconosciamo ignobili. Senza volerlo ha fatto la sintesi perfetta, il pensiero plurale, no? Grazie davvero. Semplice. Grazie. Semplice, non plurale. Anche plurale. No, plurale si può sommare. Allora io volevo ringraziare tutti della presenza e dell'attenzione, mi pare che sia anche riuscita bene la serata, qualche cosa vi abbiamo trasmesso e spero che poi abbiamo anche ricevuto tutti insieme, sì assolutamente, e tutti insieme continuiamo a fare quello che era giusto, come diceva Alexandra. Giusto, grazie.